753. Pezzo in gelo. Biscuit. Fate una crema con acqua grammi 140, zucchero grammi 50, rossi d'uovo numero 4, odore di vaniglia. Mettetela al fuoco, rimestandola continuamente, e quando comincerà ad attaccarsi al mestolo, levatela e montatela con la frusta. Se mettesse troppo tempo a montare, tenete la catinella sul ghiaccio, poi versateci a poco per volta 2 fogli di colla di pesce sciolti al fuoco in un gocciolo d'acqua. Montata che sia, unite alla medesima, adagino, grammi 150 di panna montata e ponete il composto in uno stampo, fatto apposta per i pezzi in gelo, o anche in una cazzaruola o vaso di rame, tutto coperto, lasciandolo gelare per 3 ore almeno, fra mezzo a un grosso strato di ghiaccio e sale. Questa dose potrà bastare per 7 o 8 persone e sarà un dolce molto gradito.